Volevo far partire le domande nella seconda parte di Salva Danaio, dottoressa Recia, ma ne abbiamo una proprio a questo proposito. Io allora direi di sentire subito Rosa da Bari per capire come mai il CUD non le è stato consegnato e credo che sia proprio uno dei casi che stiamo descrivendo. Rosa, buongiorno. Buongiorno. Sì, che cosa le è successo? Praticamente la nostra azienda non ci paga gli stipendi da un bel po' di tempo, prima diciamo della fine dell'anno, diciamo da ottobre. Quindi non abbiamo ricevuto busta paga, né tantomeno io mi aspetto che ci consegni CUD. Certo, e il problema è che manca, come dire, la prerogativa fondamentale per fare la dichiarazione dei redditi. Non avendo ricevuto buste paga, per questa azienda non può quantificare il reddito complessivo che ha, come dire, erogato ai lavoratori lo scorso anno. Dottoressa Recia, quanti casi le sono capitati quest'anno di questo tipo? Purtroppo, per fortuna per ora nessuno. Per fortuna, però effettivamente ci sono situazioni in cui le buste paga non vengono emesse, ma non viene neppure erogato il compenso. Pertanto, per quanto riguarda l'obbligo fiscale, quindi la tassazione fiscale, dovrà avvenire solo ed esclusivamente sugli importi effettivamente percepiti. Quindi in questo caso il lavoratore potrà, ovviamente è consigliabile che ci sia il supporto o di un professionista abilitato, ovvero di un CAF, potrà, o anche del sindacato eventualmente, ricostruire quella che è la situazione reddituale del 2009 e le imposte effettivamente pagate attraverso le buste paga che effettivamente ha il lavoratore. Certo, possiamo magari sentire Rosa se si è mossa in questo senso con magari i suoi colleghi. Rosa, voi come state dialogando anche con l'azienda per capire qual è la situazione? Noi aspettavamo, insomma, che l'azienda ci fornisse questo documento. Chiaramente, non avendo più un rapporto giornaliero con l'azienda, chiaramente le domande, insomma, si fanno quando si va in azienda per altri motivi. Perché chiaramente siamo proprio sospesi. Certo.